Il nostro comitato si è formato a seguito di un'accelerazione in qualche modo imprevista e inaspettata, operata dal governo e dalla sua maggioranza, che il 15 ottobre scorso hanno ritenuto di inserire nel collegato alla nota aggiuntiva sul bilancio 2020 il decreto di legge Boccia che prevede e tenta di normare la concessione del Parlamento e la richiesta delle regioni relativamente ad un'autonomia differenziata ulteriore rispetto a quella che è già concessa alle regioni a statuto speciale, sarebbe possibile richiederla e ottenerla su ben 23 materie che sono riportate in ordine, diciamo, di inserimento nell'articolo 116 e 117 della Carta Costituzionale, così come modificata nel 2001, titolo quinto, che tutti possano, diciamo così, valutare qual è l'ampiezza, il numero e l'ampiezza delle materie che vengono proposte alle regioni come passibili di un'autonomia che tra le sue forme prevede anche l'autonomia legislativa, oltre a quella tributaria e a quella amministrativa. È evidente che una situazione del genere, una proposta del genere avanzata nel corso dell'epidemia Covid-19, quando tutta l'opinione pubblica è concentrata sullo sviluppo impetuoso di questa epidemia e sulle difficoltà che essa impone al Servizio Sanitario Nazionale, inserita a pagina 19 del NADEF, ovviamente propone grandi, grandi problemi di attenzione perché azzera qualsiasi dibattito. Peraltro, alla luce delle opposizioni che noi da tempo abbiamo avanzato a questo disegno di riorganizzazione dello Stato e della sua attività legislativa e amministrativa, e proprio nel mezzo, paradossalmente, di una manifestazione assoluta di fallimento delle regioni nella gestione della sanità, fallimento del governo nel coordinare adeguatamente le politiche regionali in un unico disegno di contrasto al diffondersi dell'epidemia Covid e alla messa in crisi da parte della stessa del sistema sanitario nazionale. Contestualmente si erano determinate anche evidenze e gravi disagi sulla gestione della istruzione con manifestazioni e lotte anche nell'ambito della scuola e queste storiche ma in maniera comunque diffusa su tutto il territorio. Questa è l'esperienza che gli italiani hanno fatto per adesso del regionalismo differenziato o autonomia differenziata e l'ampiezza delle materie fa presupporre che situazioni analoghe vadano a determinarsi in tutta una serie di altri ambiti, tra i quali segnalo la gestione del mercato del lavoro in primo luogo, la sicurezza del lavoro in secondo luogo, il sistema pensionistico, l'ambiente e l'ecosistema, il patrimonio culturale, il sistema tributario diversificato per regione, a parte la pretesa di trattenere sul proprio territorio parte dei tributi che devono andare allo Stato avanzata dalle regioni Veneto e Lombardia, soprattutto Veneto, che sono governate dal centrodestra e diciamo a parole rigettata, ma nei fatti possibile ad attuarsi da parte della regione Emilia-Romagna, che anch'essa nel 2018 chiese al Parlamento, chiese al governo di ottenere questa autonomia differenziata con la nostra forte opposizione. Ecco, in questo contesto riteniamo quindi indispensabile che quantomeno il decreto Boccia venga stralciato dai dibattiti e dall'iter politico che porterà il Parlamento ad adottare la legge di bilancio 2021 e chiediamo, come abbiamo già fatto in passato reiteratamente, che la Regione Emilia-Romagna, la sua maggioranza e il presidente Bonaccini, al quale auguriamo una pronta ristabilimento, ritirino la proposta di autonomia differenziata della Regione Emilia-Romagna, prendendo atto del fallimento della disgregazione in 20 sistemi sanitari diversi e caratterizzati tutti comunque dall'inadeguata sviluppo della rete territoriale di assistenza, grande apertura alla privatizzazione e alle assicurazioni private in sanità e ai fornitori privati in sanità e invitiamo il Parlamento a rendersi indisponibile a ratificare le pretese già presentate dalla Regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Per questi fini abbiamo costituito il Comitato Regionale Emilia-Romagna per il ritiro di qualunque autonomia differenziata, per l'unità della Repubblica e per la rimozione delle diseguaglianze, in stretta attuazione non astratta ma concreta dei dettami della Carta Costituzionale, particolarmente l'articolo l'articolo 2 che riguarda l'eguaglianza, l'articolo 3 che riguarda la solidarietà e l'articolo 5 che riguarda l'unità della Repubblica.